Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sara Scazzi, lo zio confessa, mi respingeva, l'ho strangolata, la notizia data alla madre in diretta TV. Il viaggio del premier cinese Wang Jiabao in Italia, firmati 10 importanti accordi commerciali. Decreto unico sul federalismo approvato dal governo, Tremonti ora la delega sul fisco. Dossier contro la Marcegaglia, indagati i giornalisti Sallusti e Porro de Il Giornale. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. In primo piano sempre il ritrovamento in Puglia del corpo di Sara Scazzi. Sara rifiutava le sue avance. Lui alla fine, quel pomeriggio del 26 di agosto, l'ha strangolata nel garage della sua abitazione e ne ha abusato. Poi ha nascosto il corpo e bruciato gli abiti. Michele Misseri, lo zio, l'uomo che abbiamo visto in televisione commuoversi per la scomparsa della nipote, ha confessato nella notte. È stato sotto torchio per ore perché i sospetti su di lui erano aumentati da quando aveva ritrovato, a suo dire per caso, il telefonino di Sara mentre bruciava delle erbacce. E poi c'erano delle intercettazioni ambientali in casa sua, c'era la figlia Sabrina, l'amica del cuore di Sara, che sospettava di lui. Alla fine ha capitolato il procuratore capo di Taranto, Franco Sebastio. Ha indicato il posto dove il cadavere era stato da lui nascosto. È una sorta di cisterna interrata a livello del suolo con un foro d'ingresso di poche decine di centimetri. Non sembrano esserci dubbi sull'identità del corpo rinvenuto, ma saranno comunque compiuti tutti gli accertamenti necessari a riconoscere ufficialmente Sara. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Orrore nell'orrore per l'immagine della madre di Sara impietrita in TV. Durante la puntata di ieri di Chi l'ha visto ha appreso la notizia della morte della figlia. Allora, due minuti fa, la notizia non è confermata dagli inquirenti. La Concetta Serrano è totalmente frastornata. È in diretta televisiva Chi l'ha visto e scopre che i carabinieri stanno cercando il corpo di sua figlia. Trana il cadavere di Sara Scazzi. Concetta è in casa del fratello Michele Misseri. Michele intanto è nella caserma dei carabinieri di Taranto e ha già confessato di aver ucciso Sara. La storia è terribile e la diretta televisiva rende tutto così impraticabile, anche il dolore. Da studio le domandano se non vuole allontanarsi da casa per andare alla caserma dei carabinieri. La donna dice, è meglio. Concetta, qui c'è il quotidiano di Puglia che dice che lo zio avrebbe confessato. Concetta, vuole che terminiamo il programma? Mi dica lei, eh? Sì, è meglio. Concetta sembra un personaggio qualsiasi di una televisione senza anima. Le si chiedono cose, mentre le si dice che potrebbe essere stato il fratello ad uccidere sua figlia Sara. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sara era scomparsa il 26 agosto scorso. È il 26 agosto, ad Avetrana in Puglia scompare una ragazzina di 15 anni. Sara Scazzi esce di casa alle 14.30, vuole passare il pomeriggio al mare con la cugina di 7 anni più grande. Sara però non arriva a casa di Sabrina e alle 14.42 il suo cellulare smette di funzionare. Nei giorni successivi alla scomparsa le forze dell'ordine setacciano la campagna attorno al comune e interrogano gli amici e conoscenti di Sara. Niente di niente. Gli inquirenti pensano allora a un sequestro. La mamma di Sara è d'accordo, la figlia non può essersene andata di casa in costume da bagno. Mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno preso Sara di lasciarla libera. Viene seguita anche la pista informatica. Sara chatta e ha diversi profili su Facebook, profili che vengono gestiti da alcune amiche e vengono aggiornati anche dopo la sua scomparsa. I diari di Sara poi raccontano una ragazzina che sogna di andarsene, nemmeno l'ipotesi della fuga volontaria però porta a nulla. Poi la svolta il 29 settembre, lo zio di Sara, Michele Misseri, racconta di avere trovato il cellulare della nipote nel suo uliveto. Proprio un caso, proprio. Magari la gente dice, ah, proprio lo zio lo doveva trovare. Gli inquirenti si insospettiscono, troppe coincidenze. Ad incastrare Misseri è un'intercettazione ambientale della figlia Sabrina, la cugina del cuore di Sara. Parlando con la madre, la ragazza in lacrime accusa il papà, tanto lo so che l'ha presa lui. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed Avetrana è un paese ovviamente in lutto, continuano ad uscire agenzie, sulle agenzie si discute di questo, compagni sotto casa dello zio e l'ultima, ci fai schifo, questa è l'ultima agenzia. La visita a Roma del premier cinese Wang Jiabao, in diretta ci aggiorna la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno da Villa Madama, dove sono arrivati poco fa anche il premier cinese Wen Jiabao e con l'italiano Silvio Berlusconi per prendere parte ai lavori della conferenza Italia-Cina, preludio alla firma di un consistente pacchetto di accordi commerciali del valore di circa 2 miliardi e mezzo di dollari più una serie di accordi istituzionali. In mattinata il premier cinese aveva incontrato il capo dello Stato napolitano, che ha parlato di eccellenti relazioni tra i due paesi, e poi colloquio con i presidenti di Camera e Senato, mentre a Palazzo Chigi c'è stata la firma di 7 dei 17 accordi istituzionali che riguardano il trattato di estradizione tra Italia e Cina, il rafforzamento della cooperazione economica, il trasporto sostenibile e la promozione dei patrimoni culturali. I due premier si sono dati anche un obiettivo, quello di raddoppiare l'interscambio commerciale in 5 anni, passando dagli attuali 40 miliardi di dollari a 80 miliardi entro il 2015. Insomma, da un lato far entrare in maniera decisiva in Cina le aziende italiane, dall'altro aumentare gli investimenti cinesi in Italia. Anche per la presidente di Confindustria Marcegaglia, intervenuta poco fa, infatti la Cina è un mercato imprescindibile per qualsiasi strategia futura delle imprese italiane e l'attuale interscambio è ancora insufficiente. Siamo infatti il 21esimo fornitore della Cina, una quota a suo dire ancora bassa. Tra poco l'intervento del premier Berlusconi e da Villa Madama per ora è tutta, a voi la linea. El premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía. Lo avete sentito, tra pochissimo parleremo di questa notizia proprio di poco fa. Il Nobel per la letteratura è stato assegnato a Mario Vargas Llosa, torneremo a parlarne nella seconda parte del nostro GR. Adesso restiamo sulla visita a Roma del premier Wen Jiabao, lo avete sentito durante il collegamento con la nostra Alessandra Schepisi. La visita ha importanti risvolti economici con la chiusura di 10 accordi commerciali da 2 miliardi e mezzo di dollari. Impregilo, Shanghai Electric e Fondo Mandarin sigleranno oggi un accordo con la CDBS, la China Development Bank Security, braccio operativo finanziario dello Stato cinese, ad annunciarlo il presidente della CDBS, Li Weibin. Questo accordo è un esempio di collaborazione vincente tra Italia e Cina e tra due grandi aziende, ha detto Li Weibin, ricordando anche l'importanza dell'intesa per la creazione del Mandarin Capital Partners II, il nuovo fondo di private equity che raccoglie il testimone del Mandarin I, presieduto da Fabio Roversi Monaco, che nel 2011 punta a nuove operazioni vincenti. Il Mandarin è impegnato moltissimo perché le ipotesi e le chance sono numerosissime. E quindi ruolo estremamente dinamico, estremamente positivo. Nel 2011 non c'è nessun motivo per pensare che questo ruolo non si sviluppi, anzi probabilmente verrà implementato. Tra gli accordi di oggi nell'ambito del vertice italo-cinese è prevista la quotazione a Shanghai della società bolognese IMA e la firma del gruppo fiorentino Daedalus del software per il nuovo sistema sanitario cinese. Chiara Di Michele, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Primo via libera del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo del federalismo fiscale, in diretta la nostra Valeria De Rosa. Sì, buongiorno Anna Rita, a te e agli ascoltatori. Un unico provvedimento di 27 punti che tiene insieme il fisco regionale, quello provinciale e i costi e i fabbisogni del settore sanitario. Secondo quanto riportato dal ministro Calderoli, l'aumento delle addizionali IRPEF previste dal testo non riguarderà le prime due fasce di reddito e potrà arrivare fino a un massimo del 3%. La riduzione dell'IRAP potrà avvenire solo se non sarà aumentata l'IRPEF e gli aumenti comunque inizieranno a partire dal 2013 e le regioni potranno appunto esercitarli in maniera progressiva e solo appunto su alcuni scaglioni di reddito. Sul capitolo IVA il ministro della semplificazione ha spiegato che alle regioni si potrà girare una partecipazione vicina al 45% circa. Per quanto infine riguarda i costi standard della sanità, questi scatteranno dal 2013 e faranno da campione tre regioni con i conti in ordine. Su IRPEF e IRAP e cosa cambia in concreto per il cittadino, abbiamo raccolto il parere di Roberto Serrentino, docente di diritto e politiche economiche regionali e comunitarie. Sentiamo. Il problema per il cittadino qual è? Che finché diciamo c'è una diminuzione dell'IRPEF con un aumento, una diminuzione dell'IRAP, un aumento, una diminuzione delle addizionali, quando diciamo il saldo di queste operazioni per il cittadino è effettivamente zero, ma questo noi lo possiamo vedere soltanto nella pratica attuazione, allora chiaramente il governo ha raggiunto il proprio obiettivo di tenere invariata la pressione fiscale andando avanti sulla via di attuazione del federalismo fiscale. Ma il vero problema qual è? È quello dell'autonomia impositiva delle regioni. Nessuna regione ad oggi ha istituito dei tributi propri. Cioè l'autonomia impositiva delle regioni sulla via di attuazione del federalismo fiscale non è stata attuata. E questo che cosa comporta? Comporta un rischio, nel senso che le regioni potranno istituire questi tributi propri con presupposti soggettivi e oggettivi propri. Il ministro dell'economia ha sottolineato che l'impegno del governo è comunque quello di non aumentare la pressione fiscale, il lavoro sul federalismo è complesso, ha detto Tremonti, ma è già in stato avanzato ed è tutto. Grazie Valeria, ci sono numerose reazioni politiche, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, un'approvazione quella del varo sul federalismo da parte del governo che allontana le elezioni, lo dice Umberto Bossi, Berlusconi non le vuole, spiega il leader della Lega, io pensavo sarebbe stato meglio, ma il ragionamento di Berlusconi è legato al rischio di formare un governo tecnico. La riforma varata oggi dal governo invece riceve immediatamente le critiche del presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, che considera un errore di metodo il varo del decreto legislativo sul federalismo. Solo 48 ore fa, dice Errani, nell'incontro con i ministri competenti avevamo definito un metodo di lavoro che non prevedeva la riunificazione di due decreti. Critico il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, la riforma scassa il paese e aumenta le tasse, e Casini incita anche l'opposizione, in particolar modo il PD, a svegliarsi e a contrastare la riforma. Per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, questa sera danno zero intervista al presidente della Camera Gianfranco Fini, nelle prime anticipazioni si parla di Rai che secondo Fini va privatizzata. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta, noi ci spostiamo a Milano per le perquisizioni nella sede del giornale nell'ambito di un'inchiesta partita da Napoli su presunte minacce attraverso la raccolta di un dossier alla presidente di Confindustria. Ci aggiorna in diretta Raffaella Calandra. Raffaella. Approfondimenti in via d'urgenza. Con queste motivazioni il procuratore capo di Napoli Gian Domenico Lepore ha sottoscritto la richiesta di perquisizioni nella redazione del giornale e delle abitazioni del direttore Alessandro Sallusti e del vice Nicola Porro. Dalle 9 i carabinieri del nucleo ecologico sono qui in via Negri e stanno acquisendo PC e documenti dei due giornalisti indagati per concorso in violenza privata. Secondo l'accusa avrebbero ventilato la preparazione di un dossier contro il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Tutto parte da un'intercettazione e da un SMS registrati in un'indagine di tutt'altro genere sui rifiuti nata a Mantova e finita ai PM partenopei Woodcock e Piscitelli. Nessun dossier, ma la responsabilità penale e personale, ricorda il direttore editoriale del giornale Vittorio Feltri, che smentisce la preparazione di qualsiasi articolo sulla Marcegaglia di cui ho stima, dice. Sentiamo. Siccome non abbiamo fatto niente di strano, non riesco neanche a capire da che cosa parta sia l'ordine di perquisizione che il resto. C'è questo, diciamo così, questo fatto con la Marcegaglia, che però mi sembra una sciocchezza. Ultima cosa, qualche giorno fa il direttore Sallusti aveva scritto di sapere che i loro telefoni erano sotto controllo. E per ora è tutto. Nobel per la letteratura, Mario Vargas Llosa. L'ho strangolata e poi l'ho violentata, così ha confessato lo zio di Sara Scazzi. Importanti accordi commerciali firmati durante la visita di Wen Jiabao a Roma, in Consiglio dei Ministri via libera al federalismo fiscale. Dossier su Emma Marcegaglia, perquisizioni a Il Giornale, indagati direttore e vice. E dunque, buona giornata dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Partiamo subito dal Nobel per la letteratura, che lo avete sentito nel corso della prima parte, è stato assegnato poco fa. Beh, per una volta possiamo dire che ha vinto il Nobel un nome decisamente conosciuto dal grande pubblico, Mario Vargas Llosa, uno scrittore peruviano di 74 anni. Beh, sottolineiamo appunto che è un nome conosciuto perché, lo ricordiamo, l'anno scorso ci fu la tedesca Herta Müller, che insomma ben pochi conoscevano, e l'anno precedente addirittura Jean-Marie Gustave Le Clézio, un francese anche in questo caso semi sconosciuto. Ma allora, dicevamo, il Nobel 2010 a Mario Vargas Llosa è stato premiato dall'Accademia di Svezia per la sua mappatura della struttura del potere. Questa almeno la motivazione che è stata appunto detta oggi dall'Accademia di Svezia, l'avete sentito prima anche, l'annuncio è stato dato in onore di Vargas Llosa appunto anche in spagnolo. E a proposito di questa motivazione, diciamo che Vargas Llosa, oltre ad essere uno scrittore e un giornalista, è stato un uomo, è sicuramente un uomo molto impegnato dal punto di vista politico e un difensore dei diritti civili, tant'è vero che nel 1990, forse lo ricorderete, si candidò addirittura per la presidenza del Perù, ma risultò sconfitto per pochi voti. Per quanto riguarda invece le sue opere letterarie, insomma, il primo libro si intitolava La città e i cani ed era ambientato in un collegio militare a Lima, ma poi naturalmente ne ha scritti tanti altri. Per esempio citiamo il caporale Lituma sulle Ande, era un giallo con il quale vinse il premio Planeta, che praticamente è il premio più importante per la letteratura in lingua spagnola, ma vinse anche un premio italiano, il Grinzane Cavour, nel 2004. L'ultimo romanzo pubblicato risale al 2006, l'ultimo romanzo pubblicato in Italia, ed era Avventure della ragazza cattiva. L'abbiamo detto, Vargas Llosa, insomma, è un giornalista, uno scrittore, un uomo impegnato in politica, ma lui preferisce definirsi uno schiavo volontario e felice della letteratura. E prima di chiudere vi citerei uno degli aforismi di Vargas Llosa. Lui dice spesso: non importa quanto sia effimero, un romanzo è qualcosa, mentre la disperazione non è nulla. Per ora è tutto per il Nobel. Grazie alla nostra Alessandra Tedesco per questa diretta con tutti i dettagli del Nobel per la letteratura assegnato poco fa a Mario Vargas Llosa. Dall'estero, dall'Ungheria, dove ci sono notizie contrastanti sul fiume di fango tossico diretto verso il Danubio. Tutta la fauna del fiume Marcali è morta, ha annunciato il portavoce della Protezione Civile. Ma lo ripetiamo, le notizie si rincorrono, sono ancora contrastanti. Nonostante le rassicurazioni di Budapest, si rivelano sempre più fondati i timori delle associazioni ambientaliste. È ormai a un passo dal Danubio la marea di fanghi tossici fuoriuscita dall'impianto per la produzione di alluminio di Aica nell'Ungheria occidentale. Per la Protezione Civile ungherese la melma rossa sarebbe ancora nell'affluente del grande fiume, il Rab, una valutazione che contrasta però con quella del Servizio delle Acque, che parla di contaminazione già in atto. A due giorni dalla fuoriuscita di oltre 1 milione di metri cubi di fango velenoso e altamente corrosivo si aggrava dunque la portata del disastro ambientale che ha già causato 4 morti, fra cui una neonata, un bambino di 3 anni e oltre 120 feriti, ancora 3 i dispersi. Secondo gli esperti ci vorranno mesi, se non anni, per bonificare i terreni, per lo più agricoli, attraversati dalla melma rossa. 38 milioni di euro i costi stimati. In tutta l'area è stato dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 3.000 abitanti sono stati evacuati. Il WWF sconsiglia di recarsi nella regione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Roma in diretta. Ci sono gli applausi, quelli che state sentendo, nel corso della conferenza stampa tra il premier cinese Wen Jiabao e Silvio Berlusconi. Adesso stanno ponendo le domande, conferenza stampa dunque in pieno svolgimento, in corso di questa importante visita. Abbiamo parlato nella prima parte del nostro GR. L'oro supera anche la soglia dei 1.360 dollari l'oncia. Al mercato di New York le quotazioni hanno raggiunto oggi il nuovo picco di 1.366 dollari e a Londra di 1.364,77. Anche l'euro tornato a correre sale intanto in cima all'agenda dei banchieri della BCE, che oggi faranno il punto sulla exit strategy, sull'andamento della ripresa, ma anche sulla crisi dell'Irlanda, il cui rating ha subito ieri una nuova bocciatura. Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea non dovrebbe toccare invece i tassi di interesse. E siamo all'appuntamento con le storie delle aziende italiane che rialzano la testa dopo la crisi. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010 abbiamo una previsione di chiusura intorno ai 15 milioni, che ci porterà a una crescita sul 2009 di circa il 60%. Nel 2009 abbiamo chiuso a 11 milioni in fatturato, quindi perdendo circa il 40% rispetto al 2008. In gran recupero Cerazit, specialista nel settore dei metalli duri per utensili di precisione, come dimostrano i numeri elencati dal direttore di produzione Riccardo Terraneo. L'azienda di Alserio fa parte di un grande gruppo industriale, il numero uno mondiale industriale nel settore. La sede comasca ha 157 collaboratori e opera nel settore automobilistico, aeronautico, elettronico, dell'energia, della costruzione di macchine e utensili e dell'edilizia. Ecco il perché del recupero. Abbiamo fatto leva soprattutto sulla professionalità e sulla preparazione dei nostri operatori, spendendo circa 5.000 ore di formazione e andando avanti a investire anche su nuove macchine e nuove tecnologie, laddove c'era profittabilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una lettera anonima con escrementi è stata ricevuta ieri da Alessandra Servidori, consigliera nazionale di parità del Ministero del Lavoro. L'ha intervistata Ambra Notari. Reputo questo un atto assolutamente vigliacco e barbaro. Io credo che dia fastidio il fatto che io sia una tecnica e io lavori a testa bassa e cerchi di spiegare alle persone quali possono essere gli strumenti, le fonti a cui rivolgersi in un momento delicato dove appunto si sta parlando di occupabilità. L'ideologia, il conflitto, l'assalto, questo sistema ormai di pressione, no? Mi ricorda veramente un passato che non vorrei ricordare. Mentre è appena partita in tutta Italia la campagna anti-influenzale per la stagione 2010-2011, a Milano scoppia la polemica intorno ai rimborsi. Sentiamo. Più si vaccina, più si guadagna. Accade a Milano, dove il piano dell'ASL prevede che i medici vengano incentivati economicamente in base al numero dei pazienti immunizzati. L'obiettivo dell'ASL è migliorare la copertura vaccinale in un momento in cui, tra l'altro, anche a causa della campagna battente dell'anno scorso, si rischia ora una sottovalutazione dei rischi. Fiorenzo Corti, segretario per la Lombardia della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Penso che sia una cosa corretta, visto che la campagna di vaccinazione è un obiettivo di prevenzione e quindi è più efficace se si raggiunge percentualmente un numero maggiore di soggetti vaccinati. Nel caso che si raggiunge un certo obiettivo, no, di copertura vaccinale, viene dato anche un premio. Ma non tutti sono d'accordo. Roberto Carlo Rossi, presidente per la Lombardia del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani. Questo, a mio modo di vedere, non è etico. Questa filosofia in sanità è deleteria, perché la vaccinazione deve essere una cosa che i medici sono tutti convinti di fare, semplicemente perché è giusto farla. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il cinema adesso da Roma, dove è stata presentata la quinta edizione della Festa del Cinema di Roma. Ha seguito per noi la conferenza stampa il collega dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor, Massimiliano Zampini. Massimiliano, allora, quali sono le novità di questa edizione? Un'edizione che si presenta ricca di idee, ma forse un po' povera di stare, anche se Roma per settimane si appresta a diventare nuovamente capitale del cinema mondiale. Quasi 150 film negli 9 giorni della rassegna, di cui 16 in concorso, e con una presenza italiana anche in questo caso piuttosto robusta. 4 film concorreranno al Marco Aurelio d'Oro nella giuria che sarà presieduta da Sergio Castellitto. Dicevo povera di star, ma all'inizio, come si dice in questi casi, sarà col botto, perché ci saranno Keira Knightley e Eva Mendes, due bellissime di Hollywood, a presentare il loro nuovo film Last Night nella serata di apertura del festival. Bellissime presenze italiane anche perché madrina della rassegna sarà Valeria Solarino, e poi nei film in concorso che battono bandiera italiana vedremo Toni Servillo e Valeria Golino in due film molto attesi. E poi c'è uno sguardo molto attento, come sempre a Roma, al cinema del passato. Si ricorderà Ugo Tognazzi a 20 anni dalla scomparsa con il film documentario che gli ha dedicato la figlia, nonché il grande regista giapponese Akira Kurosawa, a 100 anni in questo caso dalla sua nascita, per rappresentare la copia di Rashomon, uno dei suoi più grandi film, la copia appena restaurata, e il cinquantenario della Dolce Vita, che sarà celebrato a Roma con la copia restaurata del film curata dalla Film Foundation di Martin Scorsese. 9 giorni in cui si alterneranno star e tanto pubblico, come sempre a Roma, certo. E quindi ci sarà da divertirsi. Grazie mille a Massimiliano Zampini per tutti i dettagli sul Festival del Cinema di Roma. E in chiusura una breve di sport. Troppo doping nello sport, tanto vale liberalizzarlo. Innanzitutto vi dico, era il tema del sondaggio di oggi in bianco nero. Siete d'accordo? Vi chiedevamo. Sì, il 18%. 100%, no l'82%. E poi c'è il calcio, l'Inter non ha mai trattato il possibile acquisto di Kakà dal Real Madrid. Lo ha detto il presidente nerazzurro Moratti, smentendo le voci che recentemente hanno avvicinato l'ex milanista all'Inter. Sul brasiliano pare ci sia invece un interessamento del suo vecchio club, il San Paolo, che lo vorrebbe riprendere dal Real Madrid per rilanciarlo come ha fatto con altri fuoriclasse carioca. Un'ipotesi, quella di cederlo, che non dispiace al tecnico madridista Mourinho. Staremo a vedere. Per il momento, per questa edizione è tutto. Vi lascio in compagnia di Italia in controluce. Prima però ringrazio in regia Pietro Lacorte. Il GR torna alle 14. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.